nella coda al supermercato che si raggrumano le vite delle persone, che sono aperte davanti agli occhi di tutti e ben visibili nei carrelli della spesa. Perché lì dentro ci sono le cose che mangiamo, quelle con cui ci laviamo o puliamo la casa, e a volte anche quelle che leggiamo. E tutto ciò ci definisce, anche se crediamo il contrario. Io sono qui. Di Matteo Caccia. 16:09 minuti, Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Nella foto c'è un bell'albero con i colori dell'autunno, un edificio che è un edificio che non sembra un edificio italiano, è più a qualcosa, non saprei dire cosa, ma a qualcosa del nord Europa. C'è l'inizio, sembra l'inizio di un parco, delle biciclette, delle persone che camminano e una ragazza bionda con dei lunghi capelli che cammina in direzione dell'obiettivo. Sotto la didascalia c'è scritto: oggi io sono qui, Amburgo, università in autunno, Tiziano Bonini. Pronto Bonini? Pronto Matteo. Dove sei esattamente? Allora, in questo momento sono in una specie di Radio 24 del nord. Cioè? Cioè la radio pubblica locale del nord della Germania, che sai in Germania sono divise per regioni, ogni sì. Regione è una radio pubblica. Eh? Sono in questo, dalla conferenza dove eravamo ci hanno portato tutti in gita a visitare questa Ma radio pubblica, quindi, solo informazione. Quindi scusa, fammi capire, innanzitutto tu non sei qui perché sei lì da 3 giorni e questo non lo dico per farti sentire in colpa, solo per far capire agli ascoltatori perché dall'altra parte in regia ci sono solo uomini oggi, ma tu non ci sei. La seconda cosa che volevo capire è... parli sottovoce perché sei dove? Parlo sottovoce perché è come se fossi lì con 30 giornalisti che stanno scrivendo i loro pezzi tutti in cuffie. In questo è uguale, ci sono le vetrate, ci sono gli ascensori con i vetri. Esattamente, fanno soltanto informazione, non ridono mai. Non ridono mai, qua assolutamente. Perché questo è impossibile, quindi per questo è impossibile che sia uguale a Radio 24, perché basta entrare e c'è comunque un clima di... allegria e serenità. Poi c'è un freddo, un grigio che insomma che fa molto Germania, anche se Amburgo è un po' la Berlino del nord, perché è abbastanza viva la notte. Senti, allora Bonini, facciamo così, visto che poi oggi non diciamo ho bravissimo, non ho particolarmente tempo oggi, come sai, come hai saputo. Mi fai un io sono qui un 3,60 intorno a te in questo momento. Allora, qui davanti a me c'è l'ascensore in vetrata del piano della radio, semigiro c'è l'entrata della radio con NDA Info, Wissen was die Welt begehrt, che non so che significa, c'è la televisione. Quindi è utile. Senti delle cose, qui ci sono 4 giornalisti davanti a me chiusi in un cubicolo a registrare. Va bene, dimmi solo come si chiama la radio. La radio si chiama NDR, che credo sia Norddeutschland Rundfunk, e poi davanti a me c'è invece un professore inglese della Guy Starkey, dell'Università del Sunderland, sì? che magari te lo passo, che poi dice che si ricorda di te. Pronto? Pronto Matteo, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, hello, you must forgive me because I don't really speak Italian. Ah, perfetto, I just speak a little English, but no one speaks English. People who is listening probably don't understand anything. So, okay. Thank you very much and bye bye. Bye bye. È stata una roba abbastanza, direi, imbarazzante anche nel mio modo di parlare inglese e nel suo non capire. Bonini, ti ringrazio molto e vedi di tornare per lunedì. Niente, ha proprio messo giù Bonini, ragazzi. Va bene. Grazie Bonini. 80024 0024 349 238 6666. Tutto per dimostrare che non è che facciamo finta, è che Bonini non c'è veramente. Ieri sera abbiamo deciso di fare questa roba al telefono con Bonini mentre io ero al supermercato ed ero a parte che il supermercato ha questa specie di aura che non so per quale motivo mi tranquillizza. Non chiedetemi il perché, ormai ho capito che ha tutto ciò a che fare con la patologia, ma non è il caso qui di affrontare. Ero però in una fase particolare della mia gita al supermercato settimanale, che è quella dell'analisi della raccolta punti. Non so se avete presente. Immagino di sì, perché non c'è supermercato che non abbia una raccolta punti, ma ormai non c'è esercizio commerciale che non abbia una raccolta punti. C'è gente che fa raccolta punti di tutto, del benzinaio, dei negozi di dischi, dei negozi di libri. Io ho una raccolta punti per il kebab, che quando arrivi a 10 te ne danno uno in più, della pizza da asporto. 80024 0024 349 238 6666, perché per condividere le mie patologie che vorrei che voi mi chiamaste oggi, perché vorrei capire qual è la raccolta punti che avete terminato e soprattutto quale premio avete ricevuto, perché il problema è portarle a termine e poi ricordarsi soprattutto che non sono scadute. Infatti prima su Facebook mi è arrivato un messaggio di Daniela che mi scrive: mi hai ricordato che proprio oggi scade la raccolta punti della Gourmet, la pappa del gatto, e naturalmente l'ho finita ma non l'ho imbustata. 800240024 oppure 349-238-6666, perché si parla di raccolte punti e io lo faccio così. Abitare vicino al supermercato è una fortuna, perché è comodo andare a fare la spesa senza dover prendere la macchina, ma soprattutto lo è perché trovi tutto e probabilmente non spendi nemmeno troppo. Però abitare vicino al supermercato è anche una fregatura, perché non ti viene mai in mente di andare in qualche posto particolare per comprare del cibo. E poi al supermercato vicino a casa mia fanno tutto, hanno tutto. È una specie di paradiso, soprattutto se vai a fare la spesa quando hai fame. Che è una cosa da non fare assolutamente, perché ovviamente compri le peggio schifezze e ti fai fregare. Ecco, al supermercato è bello perché non hai mai la sensazione che ti freghino, a quello vicino a casa mia intendo. Perché non c'è nessuno che insiste per dirti che quelle scarpe sono belle e ti stanno bene, o che questo armadio è solido e oggi è eccezionalmente per te in sconto del 70%. Che sono cose che succedono dappertutto e che a volte ti fanno pensare che ti stiano prendendo un po' in giro. E invece, nel grande magazzino lì vicino a casa mia, no. Sei solo in mezzo a tutta la merce. Io mi sento un po' come un bambino in mezzo ai giocattoli, senza controllo, senza guida, senza nessuno che mi obblighi. Il bello del supermercato è che puoi entrare e starci dentro un'ora, due, dieci e poi uscire e nessuno ti dice niente. Cioè non c'è nemmeno bisogno di scrivere entrata libera, perché lo sanno già tutti che è così. Però quando ti abitui diventa un po' come una prigione, cioè non è che sia uno che ha il macellaio di fiducia, io no, sai, quelli che ti tengono via il pezzo migliore, oppure di quelli che hanno il fruttivendolo che ha solo la verdura di stagione. Però insomma forse c'è anche qualcos'altro nel mondo oltre al mio supermercato, però io non lo vedo perché vado sempre lì. Che poi oltretutto a starci dentro, non so se ci avete mai fatto caso, però ci gira gente veramente strana, tipo quella che prende l'ultimo barattolo in fondo perché ha la data di scadenza più distante, 2015-2017. Oppure chi ti chiede di prendere una cosa lassù in cima perché sei in alto, e vabbè, oppure chi nel carrello mette solo confezioni da 12 di bottiglie di birra. E poi ci sono quelli che al supermercato ci lavorano. Gente che non si deve fare notare troppo, però che esiste, e non puoi fare a meno di notarli. Perché girano tra gli scaffali ad esporre le cose, fondamentalmente sostituiscono le cose che tu gli hai portato via. E sai bene che chi sta alla cassa è perché ha fatto qualcosa di male. È perché ha disposto male gli oggetti sugli scaffali, oppure ha risposto al superiore. Perché stare alla cassa è un po' come stare al casello dell'autostrada, o in una cella, o dietro a una lavagna. È uno dei tanti modi in cui si viene messi in castigo. Ecco, i cassieri dell'Esselunga sono gente in castigo, che ti chiede se hai la Fidati, e secondo me loro stessi non ce l'hanno. Gente che non si può alzare per andare in bagno, che se rallenta il proprio lavoro non solo si becca la ramanzina del capo a fine giornata, ma pure gli insulti borbottati dalla gente in fila. E ogni volta mi viene voglia di chiedergli: scusa, ma tu cosa hai fatto di male per stare lì, cassiera dell'Esselunga? Hey child, things are looking down. That's okay, you don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the gray and it will fade all away. Don't let yourself fall down. Sono le 19:12 minuti, giovedì 14 ottobre 2010. Io dovrei evitare di prendere il giornale che danno all'ingresso del supermercato, perché in questo giornale ci sono tutte le opportunità, tutti gli sconti, ma soprattutto ci sono tutti i punti che ti danno se prendi non uno ma due pezzi. C'è questa roba geniale per cui se tu prendi ad esempio un microfibra per lavare i vetri, ne prendi un pezzo sono 20 punti, se ne prendi due sono 60. Super 5, panno in microfibra, deodorante per l'ambiente, diffusore elettrico di fragranza, un pezzo 50, due pezzi 150 punti. Intimo donna niente, salva slip niente, guarda qua, bagno schiuma, dentifricio Blanks, un pezzo 30, due pezzi 90 punti fra, è più forte di me. Non ce la faccio, è una cosa che mi travolge, più forte di me. Perché nella coda alla cassa che si raggrumano le vite delle persone. Sono aperte davanti agli occhi di tutti e sono ben visibili nei carrelli della spesa. Perché lì dentro, in quei carrelli, ci sono le cose che mangiamo, quelle con cui ci laviamo, con cui puliamo la casa. E a volte anche quelle che leggiamo. E tutto ciò, anche se crediamo il contrario, ci definisce. La dieta del single triste è diversa da quella del single felice. Per non parlare del carrello della persona sposata, ovviamente. Che ha figli poi è facile da riconoscere, però è bello vedere come l'acquisto di certe merendine o di particolari alimenti integrali ci illuda di poterci differenziare almeno un po' dagli altri. E invece sappiamo che ci sono telecamere che osservano i nostri movimenti, movimenti che vengono studiati e inseriti in complessi algoritmi che produrranno un prezzo. E quel prezzo è il prezzo che il tal prodotto deve pagare per stare in una certa collocazione sui banconi. Sì, perché al supermercato non siamo solo noi a pagare, ma anche le industrie alimentari. Per finire nel posto migliore, ovviamente, quello più visibile, quello più invitante. E io che a volte mi illudo di essere un topo libero di scorazzare in una fabbrica di formaggio, forse invece sono solo una pallina che rimbalza in un flipper tra suoni e colori, lanciato da una mano che prevede tutto. Però almeno sono uno che alla domanda sulla fita ti può sempre rispondere con fierezza: sì, ce l'ho. Io sono un patito di raccolte punti. E visto che una logica per fare la spesa io la devo ancora trovare, e che al supermercato ci vado dopo mangiato, quindi niente mi fa gola, e manco mi faccio un foglietto perché mi ricorda troppo quello che faceva mia madre, ecco, allora io la spesa la faccio così. Prendo solo i prodotti che mi possono garantire un certo numero di punti fragola. Qualsiasi, Usci da scarpe, piadine, salviate per il viso, bottiglie di vino, purché mi aiutino ad arrivare alla meta, 10.000 punti. Non spendo mai più di 30 euro, però sono spesi bene. È per questo che alla fine io al supermercato ci vado con piacere. Per i punti. Perché alla fine, se fosse solo per il piacere di stare nel paese del Bengodi, io non credo che ci andrei, ormai non ci casco più. Quello che credevo essere un grande magazzino è solo una grande vetrina. E questa scoperta mi ha tolto il senso magico, tipo quello di Willy Wonka. E sapete come l'ho scoperto? Cioè, non è che abbia fatto una grande riflessione sopra, È solo che per curiosità, un giorno ho varcato la soglia di quel grande portone, quello che c'è in fondo, che di solito è vicino all'acqua minerale. Quella porta automatica di plastica che in parte è trasparente e che dà su quello che è il vero magazzino. È un po' come quando da piccolo alla Scala ho visto cosa c'era dietro al palco. E lì ti accorgi che c'è un mondo sconfinato lì dietro. Ecco, il retro del supermercato è qualcosa che noi umani non dovremmo vedere. Un po' come la cucina di un ristorante. Luci al neon, disordine incomprensibile, veicoli su ruote che spostano quintali di roba, ma soprattutto il cibo che viene trattato come se fosse materiale edile. No, io là dentro non ci dovevo entrare. È stato un po' come quando Truman è uscito dalla cupola del suo show e ci ha sbattuto con dentro con la barca. Poi è difficile rientrare. Io però poi l'ho fatto, in fondo è rassicurante. Quindi prometto di non pensare più al magazzino dietro al supermercato. Ecco, è un po' come al macello. A noi non è concesso vedere niente se non la carne tagliata e ben disposta, e forse è meglio così, perché non potremmo tollerare di vedere sgozzare il maiale. A me, in fondo, basta che mi diano i punti. Anche se un'ascoltatrice mi ha scritto: ma mi piace pure il programma, ma quante volte dà il numero di telefono? E beh, perché io, cioè mia zia che dice che lo do troppo veloce, quindi semplicemente continuo a darlo veloce, me lo do più volte. Io per lavoro riempio i distributori automatici. Indovina che raccolte ho finito. Raccolte su lunga due premi affettatrice e stampante a colori, magnifiche, tanto belle che le ho vendute su eBay. Simone, ho completato la raccolta punti del centro massaggi cinese sotto casa. Il premio, un massaggio extra. Mauro. 800240024 349238 6666. È arrivato però un messaggio abbastanza inquietante. Su Facebook è arrivato. Andrea dice: io sono un grande appassionato di raccolte punti. Esiste una scienza che si chiama ricerca operativa, la insegnano anche alle facoltà di ingegneria. Questa scienza permette di scoprire i trucchetti delle raccolte punti. Io per esempio ho scoperto come tramite i punti jolly affibbiati a certi prodotti si possano fregare i supermercati, e 4 anni fa ho fatto comprare a mia madre 300 euro di pizze surgelate, ricevendo in cambio punti a sufficienza per avere un frigorifero del valore di 500 euro gratis. Andrea, sei un demonio, sei a metà tra un demonio e un genio, ma ti prego, chiama e spiegami come fai. 800240024. E poi c'è un mio amico che, oltre a fare le raccolte punti, ha trovato il modo per monitorare le vendite di dati personali ai supermercati e tra i supermercati, e lui fa così. Sì. Pronto Marco, sono Matteo. Uè, ti disturbo? No, no. Sei in treno? Sì, sì. Tu mi raccontavi che quando facevi la raccolta punti tipo del supermercato o di qualsiasi roba per cui c'era bisogno di una tessera, sì, tu davi nome, cognome e poi un altro nome che ti ricordava. Beh, è vera sta storia? Sì, esatto. Cioè, ma come funziona esattamente? Funziona così, dato che c'è questa cosa che vendevano i dati. Ok. Io metto sempre il mio nome, per esempio Marco, poi metto una cosa che contraddistingue, tipo alla Saturn metto Marco Saturnino. Ok, quindi metti un secondo nome che ricorda l'azienda per cui fai la tessera. Esatto, ad esempio alla Feltrinelli la tessera Marco Felice, almeno le prime 3 lettere, così almeno. Ti serve perché se ti arrivano delle pubblicità a cui loro vendono i dati, ti arrivano con il tuo nomignolo che hai dato e esatto, ti ricorda la società che in teoria ha venduto i tuoi dati. Esattamente, di fatto questa trappola ha funzionato una sola volta, perché alla Piera hanno chiesto i dati all'uscita dalla maternità, sì, e li abbiamo messi Piera Lara, e sì, da quel momento sono arrivate valanghe di roba, pubblicità di ogni tipo. Con il nomignolo Lara? Lara, che non so per quale motivo mi ci doveva ricordare l'ospedale il parto. In quel caso lì, adesso non mi ricordo più qual era l'aggancio tra Lara e l'ospedale, forse c'era un'infermiera che si chiamava così. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto c'è una tavola imbandita. È una tavola con su una bella tovaglia ricamata, c'è del parquet per terra, una finestra coperta da una tenda, delle piante. Dà proprio la sensazione della sala da pranzo ben tenuta. Sai, della sala da pranzo in cui non entri. Ci entri solo per le occasioni importanti. Non c'è una riga sul parquet. È tutto pulito, non sembra esserci un filo di polvere. Ma al centro della foto c'è questa tavola imbandita, piena di roba da mangiare, ovviamente, tutta tagliata e pronta: del pane affettato, del patè, credo, delle cipolline e poi del pane. È la tipica cena in piedi, ci sono anche i tovaglioli raggruppati tutti insieme e le posate buttate lì, un salame da tagliare su un pezzo di legno. È proprio una cena in piedi, e come tutte le cene in piedi, sta a metà tra la cosa conviviale e l'enorme fregatura. Maria Lucia La Latta, 45 anni. Ecco, io sono qui, meglio, sono sempre qui visto che è la mia casa, ma spesso bisogna aprire il tavolo per l'arrivo degli amici. Naturalmente questo è solo l'inizio, la tavola è stata imbandita come si conviene alla tradizione sarda e tutti hanno ben mangiato e ben bevuto. Io sono qui. Quindi era solo l'inizio, non era la fregatura della cena in piedi, era solo l'inizio. Grazie Maria Lucia, devo dire che ad occhio e croce, così per un esperto come me, già quel salamino lì vale almeno 20 punti secondo me. Il pane un 15. Ma non sono l'unico fissato. Ho fatto scadere i punti Coppel e Lune Team, bravissimo, ho vinto una bicicletta, un computer e una videocamera. Faccio spesso acquisti al supermercato, invece Mari mi scrive: ma non amo fare raccolte punti, mai fatte in 62 anni di vita. Il fatto è che la raccolta implica fedeltà e costanza, due virtù che a me tolgono la libertà. Raccolta punti, fedeltà, insomma, e costanza. E poi arriva questo messaggio: ho terminato la raccolta punti del parrucchiere, oggi mi taglio i capelli gratis. Firmato Roderick. Pronto Roderick? Pronti, eccomi qua. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ma innanzitutto Roderick è chiaramente un nome inventato, perché non vuoi dire il tuo nome vero? No, Roderick Blattner è il mio nome e cognome, sono metà teutonico, metà italiano, insomma. Scusami, di cognome fai? Blattner. Cosa, vivi in Italia però, Roderick? Sì, sì, sto a Verona, vivo a Verona, ho sempre vissuto in Italia comunque. E cosa fai nella vita? Sono un funzionario di un ente pubblico e basta, sono giro per l'Italia. E quale ente pubblico, dai? Lo dico. E come no? Vabbè, l'Agenzia delle Entrate. Agenzia delle Entrate, e com'è che un funzionario dell'Agenzia delle Entrate alle 16:37 sta andando a tagliarsi i capelli? Perché ho finito di lavorare anch'io, come tutte, insomma. Alle 16.37, si finisce presto l'agenzia delle entrate. Oggi non lavoro, rientro, finito presto, insomma, dai, tutto in regola. Senti, dopo quanti tagli ti spari il taglio gratis? Io dopo quanti? 10. Dopo 10 all'undicesima gratuito. Ammazza, ma cioè, ma scusami, io mi taglierò i capelli, vabbè, io non faccio particolarmente attenzione, però mi taglierò i capelli una volta ogni 3 mesi. Questo significa che per arrivare al taglio gratis devo passare 3 anni. Lo so, questa non ha scadenza, fortunatamente. Io ogni mese e mezzo mi taglio i capelli e quindi alla fine, dopo 1 anno e mezzo, circa 2, sono arrivato all'obiettivo. Ma è un parrucchiere artigianale, cioè di quelli, che so io, taglio di capelli da parrucchiere da Marco, oppure è una catena? No, è artigianale, era un ex scuola parrucchieri che fa solo scuola qui a Verona, che fa solo parrucchiere a Verona e fa l'offerta. Senti, ma invece punti all'agenzia delle entrate non ne date? Ma che guarda, so, è uno che paga tutte le tasse. No, niente. Che abbiamo sgamato oggi, Roderick? Dai, dici, no, facci un nome. Non si può. Buon taglio di capelli, grazie mille, buona serata. Ciao, alla prossima. Andiamo a Milano da Carlo. Pronto, Carlo? Ciao. Quante raccolte punti fai tu? Un po' dappertutto. Adesso sono al parcheggio del supermercato e faccio la raccolta punti. E quindi sei lì pronto con la tessera? Esatto, pagherò con la carta di credito, avendo il che convertirò subito i punti della carta di credito, li convertirò in 1000 miglia all'Italia e dopo con la raccolta punti del supermercato, non so, così ho delle pentole. Pentole. Esatto. Pentole viaggi, direi. Pentole viaggi, con questi viaggi sono andato un po' in Grecia, in Bulgaria, in Israele, in Venezuela, in Canada. Tu fai spese settimanalmente, una volta ogni 2 giorni, una volta al mese? Faccio le spese una volta alla settimana e porto sempre un portafogli dove ho tutte le varie tessere fedeltà del supermercato, patologia. Della libreria. Certo, come no. Carlo, grazie mille, buona serata, buona spesa. Arrivederci. Ciao, alla prossima. Andiamo in provincia di Vercelli, andiamo da Diego. Pronto, Diego? Ciao, Matteo. Ciao, tu lavori nel supermercato? Io sì, sono fornitore per quasi tutte le catene d'Italia. Cioè, scusami, fornitore di cosa? Fornitore di alimentari. Ah, ok, scusami. E noi facciamo queste carte, nel senso che spesso e volentieri la grande distribuzione viene a chiederci i contributi per fare queste carte. In realtà i punti li paga l'industria alimentare italiana. No, non ho capito, cioè voi i supermercati vi chiedono di fare queste raccolte punti e quindi vi chiedono i regali? In realtà ci chiedono i contributi, cioè i soldi. Ah, li chiedono a voi? Sì, li chiedono. Ah beh, molto. Certo, perché è con i vostri prodotti che fanno le ovvio, promozioni. Sì, è ovvio. Il contributo è pesante. Diciamo. Ma quanto funzionano poi queste robe delle raccolte punti? Cioè, hanno un buon ritorno perché fidelizzano il cliente e permettono di... Ecco, scusami, poi ti lascio, ma questa cosa è vera? Cioè, il fatto che io oggi compro un prodotto perché mi dà più punti mi fidelizza su quel prodotto lì? Forse no. Forse lo compro semplicemente perché mi dà... Se è un prodotto di qualità, sì. Ah, certo. Alla e fine poi tieni conto che comunque il prodotto viene riproposto più volte all'interno di un arco temporale. Immagino. Di un anno. Perché il cliente si fidelizzi, però diciamo che le catene della grande distribuzione cercano di farlo con prodotti che hanno una certa qualità. Chiaro. Ma Diego, in realtà le due cose. Ovviamente. Grazie mille, Diego, buona serata. Salute. Ciao, grazie. Andiamo a Milano da Massimo. Pronto, Massimo? Ciao Matteo, ciao. Mi fa piacere parlare con te. Anche a me. L'altro giorno a Nadal e devo dire che è stato un bellissimo racconto. Ascolta, mi fa piacere. Parliamo di punti, bravo. Parliamo di punti, sono un cultore della materia, lo faccio da sempre praticamente. E non lo fai di lavoro tra l'altro, lo fai proprio per hobby. E non lo faccio di lavoro, sono stato un funzionario pubblico, mi Anche avvicinava tu. Molto. Esatto, una cosa strana. Sei stato funzionario pubblico di cosa, Massimo? Pensa che sono stato 11 anni funzionario di polizia municipale e fare il collegamento punti della patente con i punti è una fidelizzazione sulla sicurezza stradale anche quella. E adesso cosa fai invece nella vita, scusami, dopo 11 adesso anni di funzionario? Vendo servizi per le polizie municipali e per altre attività delle pubbliche amministrazioni. Ah, ho capito, rimani sempre lì, insomma. Sì, sono rimasto in quella. È una nicchia dove bisogna stare, insomma, non si può... È anche un fatto, come dire, molto emotivo. Una volta che ci sei dentro è difficile... Beh, immagino anche economico, visto che lavoro però, no? Beh, insomma, è chiaramente ovviamente anche per guadagnare. Massimo, dimmi soprattutto, direi Massimo, dimmi che cosa hai vinto con i punti. Allora, ho vinto di tutto, cioè ho vinto, insomma, ho raccolto, perché lì non si può parlare di vincita, ho raccolto punti, non so se si può, non si possono dire le marche, comunque dei piatti bianchi di tutti i tipi, e racconto aneddoti che fanno molto divertire di solito gli interlocutori. Ma tu scusami, tu cosa fai? Ti tieni un'agenda per segnarti le scadenze o te le ricordi o le controlli? In realtà non ci sono quasi mai scadenze, perché va a numero di punti che raccolgo. Ah, okay. Per cui è chiaro che c'è una relazione. Se vuoi un aneddoto te lo posso raccontare. Vai, al volo. Tantissimi anni fa avrò mangiato, penso, almeno un 500 kg di biscotti per avere i miei 12 coccini, e nella prima settimana di matrimonio la moglie prende uno sportello, li ha rovesciati tutti e 12 in una volta sola, dopo anni e anni di raccolta punti. Credo che questa cosa la racconto, sono passati 25 anni. E poi da lì, quel giorno lì, tu hai dato multe praticamente a tutti quanti per vendicarti di tua moglie. Ovviamente, sì, soprattutto Massimo, quando c'erano punti da togliere. Grazie mille e buona serata. Ciao, grazie. Prima parlavo di Andrea, che ha trovato un metodo, si chiama, lui la definisce una scienza che si chiama ricerca operativa, per cui riesce a guadagnare praticamente soldi con i punti, e Andrea ha chiamato. Pronto Andrea? Eccoci qua. Cioè, Matteo, tu come hai fatto a ottenere un frigorifero di 500 euro facendo comprare per 300 euro pizze surgelate? Beh, diciamo, leggendo bene il regolamento prima di tutto, sai, lo dicevi anche te prima, che spesso ci sono prodotti che ti danno molti più punti di quelli che ti darebbero normalmente. Sì. Acquistando questi qua, soprattutto questi qua, riesci ad avere questo tipo di vantaggi. Ma raccontami un altro episodio, solo questo sei riuscito a tirare? No, ma in vari casi, a parte questo qua del frigorifero, ma anche con altre raccolte sempre al supermercato, sai che tutti i premi possono essere anche convertiti in soldi, in buoni acquisti. Certo, certo. E si riesce tranquillamente in alcuni casi ad avere dei bei buoni. Ma perché, ad esempio, qui facendo due calcoli, anche per uno che non ne capisce di matematica, c'è una percentuale di ricarico del quasi del 70%. Cioè 500 euro a fronte di 300 spesi, quindi sono 200 euro guadagnati. E sempre 300 euro di pizza nel freezer poi. Ah beh certo, perché sono surgelate, quindi ce l'avrà ancora lì tua madre. Dovrei chiederlo a mia madre, penso di sì. Andrea, grazie mille, buon in bocca al lupo per tutto. Buona giornata. Ciao, grazie. Adesso invece vorrei chiudere la questione della raccolta punti, perché la radio ha questa cosa strana, che ogni tanto, quando quello di qua, tra le varie cose che dice, spesso inutili e a volte forse un po' meno, un po' più utili, c'è qualcuno di là che viene toccato su una corda particolare e gli viene da telefonare. Ieri ha chiamato un ascoltatore che si chiama Alberto e che fa il medico, che era sulla strada per tornare a casa o per andare da suo padre, a cui doveva dire delle cose. Visto che molti mi hanno chiesto come è finita quella storia, ma in primis io ci ho pensato ieri sera e questa mattina, oggi vorrei sapere, Alberto, se ha parlato con suo padre e cosa gli ha detto. Pronto Alberto? Ciao, buongiorno. Ciao e bentornato. Grazie di avermi richiamato. Ma figurati, grazie a te di aver accettato, visto che era diventata la soap opera di Io sono qui, la tua. Allora, raccontiamo velocemente. Ieri tu eri abbastanza agitato e si sentiva anche dal tono di voce, perché dovevi andare a dire, tu mi hai detto quello che penso e tutta la verità su quello che voglio dire a mio padre. Ma in realtà tu hai detto che vuoi sapere com'è finita, io non credo sia finita, anzi, non per continuare la soap opera, ma credo no, che no, sia come stato no. Soltanto un gradino. Diciamo che l'ho visto, la cosa si è incanalata in un modo un po' col senno di poi previsto, nel senso che dopo alcune cose che gli ho detto, lui, come ha fatto molte volte, è scappato, o perlomeno se n'è andato sbattendo la porta. E a quel punto lì dovevo decidere se lasciarlo andare, come avevo fatto un sacco di volte, non soltanto io, o se rincorrerlo e continuare il discorso. E cosa hai fatto? E ho scelto la seconda stavolta, sono uscito e l'ho bloccato in macchina. E quindi sei andato avanti? La cosa è continuata, sì, certamente, nonostante la sua ritrosia, se vogliamo, io ho continuato a parlare, poi se n'è andato. Alberto, mi ricordi velocemente quanti anni hai tu e quanti anni ha lui? E io ne ho 45, lui ha passato i 70. E l'ultima cosa, e poi ti lascio andare ringraziandoti ancora, no. Ti sei sentito meglio dopo, adesso, oppure no? No, non credo, no, perché non è risolto, hai capito? Il problema non è come quando dici a un capo grazie, arrivederci, chiaro. Batti la porta e te ne vai o ti caccia lui, e la cosa si chiude, è mio padre. Lo immagino. Molte cose che avrei dovuto dirgli 20 o 30 anni fa, non gliele ho dette, o non ancora, credo lo farò perché credo di essere arrivato sul crinale, no? Alberto, guarda, facciamo così, noi ormai il tuo numero ce l'abbiamo e quindi magari ogni tanto ti richiamo per sentire come va. Okay. Sarà un piacere, se ho delle novità io te le farò sapere, poi scegli tu se tenerle per te. Va bene, Alberto, grazie a te, davvero, grazie buona mille, domenica. Buona domenica anche a te. C'è chiaramente un messaggio polemico di qualcuno che mi dice: perdonami, ma sottolinea allo statale di un attimo fa che non tutti possono andare a tagliare i capelli alle 16:30. Se fosse un artigiano non mollerebbe il lavoro prima delle 19. Ecco la polemica che chiudiamo questa settimana. Io quello che ho fatto oggi è stato raccogliere 53 punti, ho capito come consumarli, ho capito soprattutto che alla fine ho fatto la solita spesa inutile. Grazie a tutti, grazie a Stefano D'Andrea, a Paolino Corleoni e a Guido Scotti. Noi ci sentiamo lunedì, perché domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?